Capitolo 25. La lezione. Nel pomeriggio di una domenica, St. Clair se ne stava sdraiato sopra una poltrona di bambù sulla veranda. Maria riposava sopra un sofà presso una finestra dirimpetto a lui, circondata da uno zanzariere, e la teneva in mano un libro di orazioni splendidamente legato. Lo teneva perché era domenica e si immaginava di averlo letto, benché si fosse abbandonata a una serie di sonnellini col libro aperto tra le mani. Miss Ophelia, dopo molte indagini, aveva alfine scoperto a poca distanza dall'abitazione un piccolo meeting metodistico e vi si era recata insieme con Evangelina, accompagnata da Tom. Agostino, disse Maria, dopo essere stata un po' sonnecchiando, bisogna che io mandi a chiamare il mio vecchio dottore Posey. Sono certa di avere una malattia di cuore. Ma perché chiamar lui? Il medico che cura Eva pare abilissimo. Oh, io non me ne fiderei in un caso difficile, ripigliò Maria, e credo di poter dire che il mio caso è tale. Da 2 o 3 notti ci penso e provo dolori orribili e strani presentimenti. Ah, oh, Maria, la tua immaginazione, io non credo punto che tu abbia una malattia di cuore. Avrei giurato che non lo credereste, e c'ero già preparata, disse Maria. Se Evangelina tosse o si lagna di qualche incomoduccio, subito vi mettete in apprensione. Ma di me non vi date mai pensiero se anche fossi vicina a morire. Boh, se vi è particolarmente gradito di avere una malattia di cuore, io dirò di sì e sosterrò la vostra opinione. Non sapevo che così vi piacesse. Oh, insomma, vi auguro che non abbiate a pentirvi della vostra durezza quando sarà troppo tardi. Esclamò Maria. Ma lo crediate o no, le mie inquietudini a proposito di Eva e gli strapazzi fatti per la cara bambina hanno sviluppato in me ciò che da gran tempo io avevo sospettato. Quali fossero gli strapazzi che Maria accennava, era difficile a sapersi. St. Clair fece questa riflessione e si avviò alla carrozza che riconduceva Evangelina e Miss Ophelia. Quest'ultima andò di filato alla sua camera senza dir parola, per deporvi lo scialle e il cappello come era solita, mentre Evangelina, accorsa alla voce di suo padre, gli si sedette sulle ginocchia per narrargli ciò che aveva udito in chiesa. Si sentì allora una forte esclamazione di Miss Ophelia partire dalla sua stanza, che, come quella in cui essi stavano seduti, si apriva sulla veranda, e voci di rimprovero violento rivolte a qualcuno. Che altra diavoleria ha inventato Topsy? Domandò St. Clair, poiché senza dubbio la cagione di tutto questo fracasso è costei. Un istante dopo giunse Miss Ophelia in gran collera, traendo seco per mano la delinquente. Su, via, vieni innanzi, gridava ella. Voglio dirlo al tuo padrone. Che c'è? Sentiamo, disse Agostino. C'è che io non posso più a lungo essere tormentata da questa briconcella. Ho sofferto anche troppo. Nessuno al mondo resisterebbe più oltre. Io l'avevo chiusa nella mia camera e le avevo dato un inno da imparare. Sapete che cosa ha fatto invece? Scopre dove sono le mie chiavi, apre il mio cassettone, prende una guarnizione da cappelli ricamate e la taglia a pezzi per far delle camicie alla sua bambola. Non ho mai veduto una cosa simile in vita mia. Ve lo dicevo io, cugina, esclamò Maria, che queste creature non si possono allevare senza gran severità. Se fossi libera di me stessa, continuò guardando con aria di rimprovero St. Clair, caccerei fuori codesta ragazza e la farei frustar ben bene. Vorrei che fosse frustata fino a che non potesse più reggersi sulle gambe. Oh, non ne dubito, disse St. Clair. Oh, conosco il buon cuore delle donne. Io non ne ho vedute mai una dozzina che non fossero disposte, lasciando fare a loro, a uccidere a furia di percosse un cavallo o uno schiavo. Cessate una volta dai vostri motteggi, St. Clair, disse Maria. Nostra cugina è una donna savia che comprende le cose chiaramente al pari di me. Oh, per me non vorrei certamente veder massacrare questa ragazza, disse ella, ma vi assicuro, Agostino, che non so più qual via tenere. Non ho mai cessato di darle insegnamenti ed esortazioni, l'ho frustata, l'ho punita in tutti i modi immaginabili, e ciò nonostante ella è sempre come prima. Vieni qua, scimmiotto, disse St. Clair alla bambina. Topsy si avvicinò. I suoi occhi luccicanti conservavano la loro solita aria di malizia, a cui però si univa una certa apprensione. Perché ti comporti in questa maniera? Domandò Agostino, che si divertiva dell'espressione comica della fanciulla. Credo che ciò derivi dal mio cattivo cuore, rispose quella gravemente. Anche Miss Felia lo ha detto. Non vedi quanto Miss Ophelia si dà premura per te? Ella dice che adoperò tutti i mezzi possibili. È proprio vero. E l'antica mia padrona diceva la stessa cosa. Mi frustava ben più fortemente, mi tirava per i capelli e mi batteva il capo contro gli usci. Ma non ne cavò mai niente. Io credo che se mi venissero strappati dalla testa tutti i capelli non diventerei migliore. Sono tanto perversa. Oh, io non voglio più saperne, disse Miss Ophelia. Permettetemi una domanda, disse Sinclair. Quale? Se non vi basta l'animo di convertire una pagana abbandonata interamente a voi, a che pro inviare missionari fra un popolo di bruti? Miss Ophelia non rispose. Evangelina, rimasta fino allora muta spettatrice di questa scena, fece cenno a Topsy di seguirla. Vera, all'estremità della veranda, una stanzetta con l'uscio a vetri di cui Sinclair si serviva per gabinetto di lettura. Colà entrarono Evangelina e Topsy. Che farà Eva? Pensò Sinclair. E inoltrandosi in purità di piedi, si sollevò la tenda che copriva l'uscio a vetri e guardò nella stanzetta. Poco dopo, ponendosi il dito sulle labbra, fece cenno a Miss Ophelia di avvicinarsi. Le due fanciulle sedevano per terra. Topsy conservava la sua solita aria maligna e indifferente, mentre Evangelina era in preda a profonda commozione. «Perché sei tanto cattiva, Topsy? Non vuoi dunque bene a nessuno al mondo?» Davvero non lo so, voglio bene allo zucchero, ai pasticci, ecco, rispose Topsy. Ma non ami tuo padre e tua madre? Non ebbi mai, lo sapete, ve lo dissi già, Miss Eva. Ah sì, me ne ricordo, riprese Evangelina mestamente. Ma non avesti mai fratelli, sorelle, zie? Nessuno, nessuno. Ma se tu ti sforzassi a divenire buona, Topsy, forse ti riuscirebbe. E quando fossi buona sarei pur sempre una negra. Se mi levasse la pelle nera e potessi divenire bianca, oh, allora mi proverei. Ma la gente può amarti anche se sei nera, Topsy. Miss Ophelia ti amerebbe se tu fossi buona. Topsy fece quel ghigno con cui era solita esprimere la sua incredulità. Non lo credi? Domandò Evangelina. No, Miss Ophelia non mi può soffrire perché sono una negra. Avrebbe meno orrore di toccare un rospo. Nessuno può amare i negri e i negri non possono far nulla di bene. Ma che me ne importa? E Topsy si pose a fischiare. Oh, Topsy, povera fanciulla, io ti amo, esclamò Evangelina con subitaneo scoppio di tenerezza, ponendo la sua manina bianca e scarna sopra la spalla di Topsy. Io ti amo perché non hai né padre né madre né amici, perché fosti una povera fanciulla maltrattata, abbandonata. Ti amo e vorrei vederti buona. Io sono molto malata, Topsy, credo che non vivrò più a lungo. E mi duole veramente che tu sia tanto cattiva. Prova a essere buona, per amor mio, nel poco tempo che rimarrò ancora con te. Gli occhi rotondi e vivacissimi della nera si riempirono di lacrime che caddero a una sulla piccola e bianca mano. In quell'istante un raggio di vera fede e di amore celeste penetrò nelle tenebre di quell'anima pagana. Con la testa piegata tra le ginocchia, ella pianse e singhiozzò. Mentre la bella fanciulla china su di lei sembrava un angelo rifulgente chino per sollevare un peccatore. Povera Topsy, disse Evangelina, non sai che il Signore ama tutti egualmente. Egli è disposto ad amare te come me, egli ti ama come io ti amo, anzi di più, perché è molto migliore di me. Egli ti aiuterà a correggerti e tu allora potrai andare in cielo e divenire un bell'angelo, né più né meno che se tu fossi una bianca. Pensaci, Topsy, tu potresti divenire uno di quegli spiriti beati di cui lo zio Tom canta le lodi nei suoi inni. Oh, cara Miss Eva, esclamò la fanciulla. Mi proverò, non mi sono mai curata di essere buona per là dietro. Sinclair lasciò ricadere la tenda. Ella mi rammenta mia madre, disse la cugina. È pur vero quello che la. Mi diceva, se vogliamo rendere la vista ai ciechi, dobbiamo, come Cristo, chiamarli a noi e porre le mani su di loro. Io ebbi sempre dei pregiudizi contro i neri, rispose Miss Ophelia. È un fatto che non potevo soffrire di lasciarmi toccare da quella fanciulla, ma io non credevo che ella se ne fosse accorta. Oh, perché non conoscete i fanciulli, riprese Sinclair. È impossibile che si non s'accorgano di tali cose. Io credo che tutti i vostri sforzi a favor suo non le desteranno in cuore un moto di gratitudine, finché serberete questa ripugnanza per lei. È cosa strana, ma è così. Non so come superare tale disgusto, disse Miss Ophelia. Sento una certa antipatia per i neri e per Topsy specialmente. Non so come vincermi. Eva vi è riuscita, È così amorevole e la segue davvero la legge cristiana, dissemi Sofelia. Vorrei imitarla. Eva può farmi da maestra. Se così fosse, non sarebbe questa la prima volta che un fanciullo avrebbe insegnato a un vecchio, disse Sinclair. Capitolo 26. La morte. La stanza da letto di Evangelina era una spaziosa camera che, come tutte le altre della casa, dava sull'ampia veranda. La stanza comunicava da una parte con l'appartamento di suo padre e di sua madre e dall'altra con quello di Miss Ophelia. Sinclair aveva assecondato il proprio gusto decorando quella camera in uno stile che fosse specialmente d'accordo con l'indole di colei che l'abitava. Le finestre erano adorne di mussolina bianca e rosa, un tappeto fatto a Parigi e del quale Sinclair aveva dato il disegno era disteso sul pavimento, aveva una balsa di bocci di rose e fogliame e il centro era formato da un mazzo di rose sbocciate. Il letto, le sedie e i sofà di bambù erano eleganti e originali. Sopra una mensola d'alabastro vicino al letto era un angelo meravigliosamente scolpito con le ali socchiuse. Teneva nelle mani protese una corona di mirto. Il cortinaggio di garza color di rosa rigato d'argento scendeva dal baldacchino e serviva da zanzariere. Difesa indispensabile in quel clima in ogni stanza da letto. I sofà di bambù erano coperti di cuscini di damasco color di rosa in gran numero e dalle mani di statuette scolpite scendevano su quelli cortine di garza simili a quelle del letto. Una leggera e graziosa tavola di bambù, posta in mezzo alla camera, sosteneva un vaso di marmo greco della forma d'un giglio, coi suoi bottoni sempre pieno di fiori. Su quella tavola erano i libri e il calamaio di Eva. V'era infine nella camera un caminetto di marmo e su quello una bellissima statuetta del Redentore in atto di accogliere i fanciulli. Ai lati, vasi di marmo nei quali Tom si onorava e deliziava di mettere ogni mattina mazzi di fiori. Due o tre bellissime pitture rappresentanti fanciulli adornavano le pareti. Insomma, dovunque l'occhio si volgesse, incontrava simboli di innocenza infantile, di bellezza e di pace. Nell'aprire gli occhi alla luce del giorno, Eva riceveva impressioni soavi. La forza apparente che sosteneva la fanciulla dileguò ben presto, il suo lieve passo si faceva sentire sempre più di rado sulla veranda perché ormai ella se ne stava quasi sempre adagiata sulla poltrona presso la finestra spalancata, coi grandi e profondi suoi occhi fissi sulle acque del lago. Mentre ella stava così adagiata, sulla metà del pomeriggio, con la Bibbia aperta sulle ginocchia, le dita trasparenti fra le pagine di essa, udì all'improvviso la voce di sua madre che gridava sulla veranda più aspramente del solito. Che hai fatto? Che nuova bricconata ti proponi? Hai colto i fiori, eh? E nel medesimo tempo Evangelina sentì il suono di uno schiaffo. Perdono, signora, questi fiori sono per Miss Eva, rispose la voce di Topsy. Miss Eva, eh? Bella scusa, credi che Eva abbia bisogno dei tuoi fiori? Negra, buona a nulla che sei. Via, subito di qua. Evangelina balzò dalla poltrona e uscì sulla veranda. Oh, mamma, mi piacciono tanto i fiori, lasciate che io li abbia, ve ne prego. Ma Eva, la tua camera ne è già piena. Oh, non sono mai troppi, disse Evangelina. Topsy, portameli. Topsy, che si era tirata in disparte con aria stizzosa, venne subito a offrirglieli. La sua titubanza era l'opposto della consueta sua folle arditezza e vivacità. Oh, che bel mazzo, disse Evangelina nel riceverlo. Tu accomodi i fiori con molta grazia, Topsy. Non ne ho in questo vaso, soggiunse, e gradirei che tu me ne portassi ogni giorno. È un'idea strana, disse Maria. Che bisogno ne hai? Non importa, mamma, non volete forse che Topsy mi accontenti? Ma sì, cara Eva, fai pure ciò che vuoi, Topsy. Hai udito la tua padroncina, ricorda bene i suoi ordini. Topsy abbassò lo sguardo, fece un lieve inchino e mentre si allontanava, Evangelina vide che le lacrime cadevano sopra le sue guance nere. Vedi, mamma, io sapevo che la povera Topsy desiderava fare qualcosa per me, disse Evangelina. Ah, no! Ella gode solamente di fare sciupio e coglie i fiori appunto perché le è vietato di toccarli, ma se ti aggrada li colga pure. Mamma, Topsy è molto cambiata. Ella ora fa di tutto per diventare buona. Oh, dovrà sforzarsi per molto tempo prima che la possa riuscire al bene, disse Maria con un gesto sprezzante. Sai pure, mamma, che nessuno al mondo ebbe mai cura della poverina e la fu allevata in modo ben diverso da noi. Oh, è vero, disse Maria sbadigliando. Oh, mia cara, fa un caldo insopportabile. Non credi, mamma, che Topsy potrebbe divenire un angelo come ciascuno di noi se fosse cristiana? Che idea ridicola! Non ci sei che te per pensare cose simili, ma infatti potrebbe anche essere. Mamma, il Dio non è suo padre come Padre nostro, non è Gesù il suo Salvatore. Oh, sì, può essere, ti dico. Credo che Dio abbia fatto tutti gli uomini, ma dov'è la mia boccettina? Eppur triste cosa, esclamò Evangelina con gli occhi fissi sul lago, come parlando a se stessa. Che vuoi dire? Chiese la madre. Dico che è pur triste cosa pensare che una creatura, la quale avrebbe potuto divenire un angelo e abitare un giorno nel cielo, cada giù giù nel profondo, né vi sia chi la soccorre, infelice. Non possiamo farci nulla, è dunque inutile accorarsene, Eva. Il meglio è essere grati a Dio dei beni che ne riceviamo. Oh, eppure io mi affliggo pensando alle povere creature che non hanno alcun bene. Strana idea. La mia religione mi insegna di essere grata dei benefici che ho. Mamma, disse Evangelina, vorrei che mi tagliassero alcune ciocche dei miei capelli, anzi molte. Perché? Vorrei darne ai miei amici finché sono in grado di farlo io stessa. Vuoi chiamare la cugina affinché venga a tagliarmeli? Maria rinforzò la voce per chiamare Miss Ofelia senza scomodarsi. Quando la vide entrare, Evangelina si sollevò alquanto sopra i cuscini e scuotendo le lunghe sue trecce dorate, disse con aria scherzevole: Venite, cugina, a tosar l'agnello. Che significa ciò? Chiese Sinclair che entrava in quel momento recando alcune frutta che aveva colte egli stesso. Babbo, io prego la cugina di tagliare una parte dei miei capelli. Ne ho troppi e mi riscaldano la testa, inoltre desidero darne a qualcuno. Miss Ofelia si fece innanzi con le forbici. Badate bene, fate in modo che non apparisca, tagliate per di sotto. I capelli di Eva sono il mio orgoglio. Oh, babbo, esclamò Evangelina tristemente. Sì, e desidero che siano ben cresciuti e inanellati. Quando andremo alla piantagione di tuo zio a trovare il cugino Enrico, disse Sinclair con accento gioviale. Non andrò mai. Babbo, vado in un paese più bello. Oh, credimi, non vedi che ogni giorno vado perdendo le forze? Perché insisti nel volermi far credere una cosa sì crudele, Eva mia? Le disse il padre. Perché sento che è vera, babbo, e se tu vorrai credervi, forse non potrai fare a meno di condividere i miei sentimenti. Sinclair ammutolì e guardò con dolore quei lunghi capelli che Miss Ofelia poneva sulle ginocchia della fanciulla a mano che li veniva tagliando. Evangelina li prendeva, li guardava fissamente. Li inanellava sul dito e di quando in quando fissava sul padre uno sguardo ansioso. Ecco appunto ciò che prevedevo, esclamò Maria. Ecco ciò che distruggeva la mia salute e mi conduce alla tomba senza che alcuno vi ponga mente. Io lo previdi da gran tempo, Sinclair, e fra poco confesserete che avevo ragione. Oh, e ciò vi riuscirà certamente di grandissima consolazione, rispose Sinclair con amarezza. Sua moglie si gettò riversa sopra un seggiolone, coprendosi il viso col fazzoletto. I sereni, azzurri occhi di Evangelina si volgevano or sull'uno or sull'altra. Era lo sguardo tranquillo e intelligente di un'anima già mezzo distaccata dai suoi legami terreni. Ella parve allora comprendere e sentire la differenza che correva tra l'uno e l'altro dei suoi genitori. Fece cenno con la mano al padre, egli venne e le si sedette accanto. Babbo, io divento ogni giorno più debole e sento che me ne vado. Ho bisogno di dirti e di fare alcune cose. Tu non vuoi udir parola su tal soggetto, ma bisogna pur che tu mi ascolti. Non vi è tempo da perdere. Consenti che te ne parli adesso. Figliuola mia, lo consento, disse Sinclair coprendosi gli occhi con una mano, mentre con l'altra teneva quella di Evangelina. Io desidero dunque di vedere qui tutti i nostri servi. Ho da dir loro qualche cosa. Ebbene, disse Sinclair con voce che parve un gemito, sia pure. Miss Ofelia spedì subito un messaggero e tosto la moltitudine dei servi si adunò nella camera. Evangelina era sostenuta dai guanciali, intorno al viso le ondeggiavano i capelli e le guance vivamente colorite formavano un doloroso contrapposto con la bianchezza della sua pelle e la magrezza delle sue forme. Evangelina si sollevò alquanto e guardò a lungo e fissamente intorno a sé. Ciascuno appariva pieno di tristezza e di ambascia, parecchie donne si coprivano il viso coi grembiuli. «Vi ho fatto chiamare tutti i miei cari amici», disse Evangelina, «perché vi amo. Io vi amo tutti e ho da dirvi cosa della quale vorrei che vi ricordaste sempre. Io sto per abbandonarvi. Fra pochi giorni non mi vedrete più». E qui la fanciulla fu interrotta da gemiti, pianti e lamentazioni che sorsero da ogni parte in modo che la debole sua voce ne rimase soffocata. Ella tacque un istante, poi con un accento che sospese il singhiozzare di tutti disse: «Se mi amate, non mi interrompete così. Ascoltatemi. Io voglio parlarvi delle vostre anime. Parecchi di voi, temo, non vi pensano abbastanza. Voi altri non vi prendete cura se non delle cose di questo mondo, ma io bramerei che vi rammentaste dell'altro mondo, assai più bello, dov'è il Dio. Io vado là e voi pure potrete venirci. Il luogo è preparato per voi come per me, ma se desiderate di salirvi, non state più a vivere nell'inerzia, nell'indifferenza e nella spensieratezza. Bisogna che siate cristiani. Ricordatevi bene che potete tutti divenire angeli ed essere angeli per sempre. Se desiderate ciò, bisogna vivere da cristiani, pregare, leggere». La fanciulla si interrompe e, guardandoli con profonda compassione, disse teneramente: «Oh Dio buono, mi dimenticavo che non sanno leggere, povere creature». E nascondendo il viso nei guanciali si pose a piangere, ma i singhiozzi mal trattenuti di coloro a cui aveva rivolto le parole e che se ne stavano genuflessi sul pavimento la incitarono a proseguire. «Non importa», disse ella rialzando il capo con un amabile sorriso. «Io ho pregato per voi e so che Gesù vi aiuterà, quantunque non sappiate leggere. Fate ogni vostro sforzo, pregate tutti i giorni, chiedetegli soccorso, fatevi leggere la Bibbia ogni volta che potrete e io sono certissima che vi rivedrò tutti in cielo». «Amen», risposero a voce sommessa Tom, Mammy e altri che appartenevano alla chiesa dei metodisti. Anche i più giovani e spensierati per la prima volta singhiozzavano con la testa abbassata tra le ginocchia. «Io so», soggiunse Evangelina, «che voi tutti mi amate. Oh sì, vi amiamo davvero, Dio vi benedica». Fu la spontanea risposta di tutti. «Lo so bene, non c'è uno solo di voi che non sia stato sempre buono con me e ora io desidero darvi qualche cosa che non potrete guardare senza ricordarmi. Ecco per ognuno una ciocca dei miei capelli. Quando la guarderete, ricordatevi che io vi ho amati e che sono andata in cielo e che bramo di vedervi tutti lassù». Allora succedette una scena che non potrebbe ridirsi a parole. Tutti si adunarono intorno alla fanciullina, piangendo, singhiozzando, per ricevere dalla mano di lei quell'ultimo pegno di affetto. Cadevano in ginocchio, pregavano e le baciavano il lembo della veste. I più attempati le rivolgevano parole di riverente amore, miste a preghiere e benedizioni, in cui si scorgeva l'impronta della sensibilità della loro razza. Di mano in mano che ciascuno di essi riceveva il suo dono, Miss Ofelia, che temeva per la piccola inferma l'effetto di tanta agitazione, faceva loro un cenno perché uscissero dalla camera. Alla fine non vi rimasero che Tom e Mammy. «Eccone una assai bella per voi, zio Tom», disse Evangelina. «Oh, come sono contenta, zio Tom, nel pensare che vi rivedrò in paradiso. Oh sì, voi ci sarete, e anche Mammy, cara, buona e dolce Mammy», soggiunse ella gettando affettuosamente le braccia al collo della sua nutrice. «Oh, Miss Eva, come potrò vivere senza di voi?» disse la fedele creatura. «Mi sembrerà che tutta la casa sia deserta». E così dicendo, Mammy si dava alla disperazione. Miss Ofelia spinse dolcemente lei e Tom fuori dall'uscio. Ella credeva che tutti fossero usciti, ma voltandosi, il suo sguardo incontrò Topsy che le stava ritta dinanzi. «Di dove esci?» le chiese vivamente. «Ero qui», rispose la negretta asciugandosi gli occhi. «Oh, Miss Eva, Io sono stata cattiva, ma non darete anche a me una ciocca dei vostri capelli? Oh sì, certo, povera Topsy, tieni. E ogni volta che la guarderai, pensa che io ti ho amata e che ho cercato di renderti buona. Oh, Miss Eva, procurerò, ma per me è così difficile il far bene, non sono ancora riuscita a prenderne l'abitudine. Dio ti aiuterà, Topsy, sì. Egli ti aiuterà, perché gli incresce molto di vederti cattiva. Topsy se ne andò tutta afflitta, nascondendosi in seno la preziosa ciocca. Usciti che furono tutti, Miss Ofelia chiuse la porta. L'esimia donna non aveva potuto trattenere le lacrime durante quella commovente scena, ma era in grave pensiero per le conseguenze che potevano derivarne alla malata. St. Clair, in tutto quel tempo, era rimasto immobile, col volto nascosto tra le mani. Babbo, disse Evangelina con voce soave, ponendo una manina sulle mani di lui. Egli si scosse, rabbrividì, ma non rispose. Caro babbo, disse ella. St. Clair balzò in piedi e in preda a una viva agitazione esclamò: Ah, non posso, no, non posso, non posso sopportare questo dolore. L'Onnipotente fa pesare su me tutta la sua collera. E il suo accento era pieno di amarezza. Agostino, disse Ofelia. Iddio è padrone di disporre come gli aggrada di ciò che è suo. Forse, ma non per questo la mia sventura è meno orribile, replicò egli con voce aspra, irraconda e senza versare una lacrima mentre si voltava altrove. Oh, babbo, tu mi spezzi il cuore, disse Evangelina abbandonandosi tra le sue braccia. Non sta bene pensare così. E singhiozzava e piangeva con una violenza che li spaventò tutti. E cambiò d'improvviso il corso dei pensieri di suo padre. Calmati, calmati, Eva mia, calmati. Ho avuto torto, sono cattivo. Sentirò nel modo che ti piace, farò tutto quello che vuoi, ma calmati, non piangere. Io mi rassegnerò. Sono colpevole di aver parlato a quel modo. Ben presto, Evangelina si ricompose come un'innocente colomba nelle braccia di suo padre ed egli, curvo su di lei, le bisbigliò le più soavi parole. Maria si alzò a un tratto e ritornò nel suo appartamento dove ebbe un violento attacco di nervi. E a me non hai dato una ciocca dei tuoi capelli, Eva mia, le disse suo padre con un sorriso malinconico. Sono tutti per te, babbo, rispose Evangelina sorridendo anch'essa. Per te e per la mamma, e ne darai alla cugina quanti ne desidera. Solamente ho voluto io stessa darne a quei poveretti perché potevano essere dimenticati. Capisci, babbo, quando io non ci sarò più e perché spero che ciò li aiuterà a ricordarsi. Tu sei cristiano, babbo, non è vero? Disse Evangelina con aria pensosa. Perché mi fai questa domanda? Non so, tu sei tanto buono, né potrei comprendere come tu non fossi cristiano. Che intendi per essere cristiano, Eva? L'amar Cristo sopra ogni cosa. E lo ami tu, Eva, a questo modo? Oh sì, certamente. Ma, disse St. Clair, non lo hai mai veduto? Che importa ciò? Replicò Evangelina. Io credo in lui e fra non molti giorni lo vedrò. E il viso della fanciulla era tutto raggiante di allegrezza. St. Clair non aggiunse parola. Si ricordò che sua madre aveva gli stessi sentimenti, ma nessuna corda vibrava nel suo cuore. Evangelina, dopo quel giorno, declinò rapidamente, non vi era dubbio del prossimo evento. Bisognava rinunciare a ogni speranza. La sua bella camera da letto era, agli occhi di tutti, una stanza mortuaria. Lo zio Tom era spesso nella camera di Evangelina. La fanciulla andava soggetta a irritazioni nervose e trovava qualche sollievo nel farsi portare in giro, ed era per Tom la maggior soddisfazione di recare in braccio quella debole creatura adagiata sopra cuscini, ora nella sua camera, ora sulla veranda, e talvolta, quando un fresco venticello spirava dal lago nelle prime ore del mattino, egli la portava attorno sotto gli aranci del giardino e la deponeva sopra un sediletto per cantarle i suoi inni prediletti. Anche suo padre la portava in braccio, ma non poteva reggere molto a questa fatica e quando ella lo vedeva stanco gli diceva: Babbo, lascia fare a Tom, poveretto, lo fa volentieri, sai bene che non può farmi altro, eppure desidera tanto di fare qualche cosa per me. E io no, Eva, disse il padre. Oh, sì, tu fai molto per me e sei il mio tutto, tu mi fai la lettura, tu mi vegli di notte. Tom non ha che questo e i suoi canti, e poi egli è più robusto di te, sento che mi porta con maggior facilità e senza stancarsi. Tom non era il solo che desiderasse far qualche cosa per Evangelina, tutti gli schiavi della famiglia partecipavano a quel desiderio e gareggiavano di zelo per servirla. Il cuore della povera Mammy volava sempre verso la padroncina, ma ella non aveva modo di recarvisi né giorno né notte perché Maria aveva dichiarato che il suo stato di salute non le permetteva di rimanere sola. E poi sarebbe stato contrario ai suoi principi concedere che altri avesse un momento di tregua. 20 volte la notte Mammy doveva alzarsi dal letto per fregarle i piedi o bagnarle la fronte o cercare il fazzoletto o darle da bere e abbassare una cortina perché v'era troppa luce, sollevarla perché faceva troppo scuro. Di giorno, quando credeva di potersi recare un momentino presso l'inferma, Maria trovava mille modi per darle da fare, tenerla presso di sé o commetterle nuovi ordini, sicché Mammy non poteva vedere Evangelina che di sfuggita. «Mi sento in obbligo di badar bene alla mia salute», diceva Maria, «debole come sono e con le cure che io debbo a questa cara fanciulla». «In verità», rispondeva St. Clair, «mia buona amica, credevo che nostra cugina te ne alleviasse il peso». «Tu parli come uomo, St. Clair. Si può alleviare il peso di una madre nelle cure che si richiedono per una fanciulla in quello stato? Oh, ma è sempre così. Nessuno intende mai quello che io provo. Non posso mica prendere le cose come fate voi». St. Clair sorrise. E dobbiamo scusarlo se poté sorridere, perché quella creaturina nel dipartirsi da loro era così tranquilla e serena. Una brezza così soave spingeva la sua navicella verso le celesti rive, che nessuno avrebbe potuto credere all'appressarsi della morte in quella forma. La fanciulla non sentiva dolore, ma solamente una soave stanchezza ogni or crescente, ed era così bella, fidente, felice, che fondeva la pace intorno. St. Clair sentì una strana calma insinuarsi nell'animo suo. Ma la speranza ormai diventata impossibile non era rassegnazione, bensì una sicurezza del presente così soave che egli non si curava dell'avvenire. Era come la dolcezza malinconica che proviamo in autunno quando i boschi cominciano a impallidire, quando gli ultimi fiori sbocciano sugli argini e noi tanto più godiamo di quella vista in quanto che sappiamo di non averne a godere a lungo. Quegli che meglio conosceva i pensieri e i presentimenti di Evangelina era il suo amico e fedele servo Tom. A lui ella confidava tutto ciò che non avrebbe detto a suo padre per timore di affliggerlo troppo. A lui comunicava quei misteriosi avvertimenti che l'anima riceve quando i vincoli con cui è stretta al suo carcere di argilla cominciano ad allentarsi. Tom, finalmente, non volle più coricarsi nella sua cameretta, ma passava le notti nella veranda, pronto ad ogni chiamata. «Zio Tom», gli disse Miss Ophelia, «che idea vi salta in capo di dormire per terra come un cane? Io vi credevo uomo d'ordine al quale piacesse di coricarsi a letto da cristiano». «Sì, Miss Ophelia», rispose Tom con aria di mistero, «ma ora, ebbene, ora che c'è?» «Parliamo sottovoce. Il padrone non sarebbe contento di udirmi, ma bisogna pure, Miss Ophelia, che qualcuno vegli per aspettare lo sposo». «Che volete dire, Tom?» Oh, sapete bene che è detto nella Sacra Scrittura, a mezzanotte s'intese un grido e ecco lo sposo che viene. Ora mi sveglia, io l'aspetto ogni notte, né potrei chiudere occhio se fossi tanto lontano da non sentirlo giungere. Che cosa vi fa credere così vicino l'istante? Miss Eva me lo ha detto. Il Signore le mandò un suo messaggio celeste e io voglio star pronto, Miss Ophelia, perché quando la benedetta creatura salirà al cielo, la porta sarà spalancata così ampiamente che noi potremo gettare uno sguardo in quella gloria. Zio Tom, Miss Eva si è lamentata di sentirsi peggio? Stasera? No, ma stamani mi ha detto che l'ora si avvicina. Sono gli angeli che lo rivelano all'anima sua. È della tromba il suono che annunzia il santo dì, soggiunse egli citando il suo inno prediletto. Questo dialogo avveniva tra Tom e Miss Ophelia dopo le 10, una notte che, fatta la sua solita ispezione e andando a chiudersi nella propria camera, Miss Ophelia lo trovò sdraiato sopra una stuoia dinanzi all'uscio. «Cugina», le disse St. Clair, «ci riuscirà forse di salvarla, ella certamente sta meglio», e si ritirò, col cuore più sollevato di quanto non l'avesse avuto da parecchie settimane. ma sulla mezzanotte, ora strana e misteriosa, in cui diviene più trasparente il velo che separa il fragile presente dall'eterno avvenire, il messaggero comparve. Si udì un calpestio nella camera, come di persona che si affretta. Era Miss Ofelia, che, rimasta a vegliare presso la fanciulla, si avvide di ciò che le sperimentate infermiere sogliono chiamare un cambiamento. Ella aprì la porta che immetteva nella veranda. E Tom fu subito in piedi. Tom, andate a chiamare il medico senza perdere un istante, disse Miss Ofelia. E traversata la camera, bussò all'uscio di St. Clair. Cugino, disse, accorrete, ve ne prego. Queste parole caddero sopra il cuore di lui come palate di terra sopra una cassa da morto. Egli fu in un attimo fuori della sua camera, chino sopra la figlia tuttora addormentata. Che cosa vide perché il cuore gli si agghiacciasse? Perché nessuna parola fu scambiata tra i due? Ben potete comprenderlo voi che vedeste quella medesima espressione sopra un volto umano amato, quell'espressione indescrivibile che non lascia alcuna speranza, che non ammette inganni e vi avverte che la persona cara non sarà a lungo più vostra. Il volto di Evangelina, però, non aveva un'impronta di terrore, ma un'alta, quasi sublime espressione, segno della presenza tutelare degli angeli, Aurora, della vita immortale in quella fanciulletta. St. Clair e sua cugina la contemplavano in sì profondo silenzio che lo scillare del pendolo dell'orologio pareva troppo rumoroso. Dopo alcuni momenti Tom tornò col medico, il quale gettò sulla giacente uno sguardo e non fece parola. E quando è avvenuto questo cambiamento? Chiese poi a bassa voce, allo scoccare della mezzanotte. Svegliata dall'arrivo del medico, Maria uscì in gran fretta dalla camera vicina e tutta conturbata esclamò: Agostino, cugina mia, che c'è? Zitta! Rispose St. Clair con voce tremante: Ella muore! Mammy udì queste parole e corse ad avvertirne gli schiavi. Tutti di casa furono subito in piedi, i lumi correvano, si udiva rumor di passi da una stanza all'altra, facce ansiose riempivano la veranda e guardavano piangendo attraverso i cristalli, ma St. Clair nulla intese, nulla disse, e gli vedeva solamente quell'espressione misteriosa sul volto della fanciulla addormentata. Oh, esclamò, se volesse destarsi e dirmi ancora una parola. E chinandosi sopra di lei, le mormorò dolcemente all'orecchio: Eva, mia diletta Eva. I grandi occhi azzurri della fanciulla si apersero. Un sorriso le balenò sul volto e la tentò di sollevare un poco la testa e di parlare. Mi ravvisi, Eva, caro babbo, disse ella facendo un ultimo sforzo e mettendogli le braccia intorno al collo, ma queste ricaddero. St. Clair vide uno spasimo di agonia passarle sopra il volto e l'aveva il respiro affannoso e le sue manine tremavano convulsamente. Gran Dio, è cosa troppo orribile! Esclamò egli, voltandosi altrove con disperazione e stringendo con ansia le mani di Tom, senza sapere ciò che facesse. Poi soggiunse: Tom, figliuolo mio, il dolore mi uccide! Tom teneva strette nelle sue mani quelle del padrone. Il suo nero viso era inondato di lacrime ed egli guardava in alto, in atto di chiedere aiuto a chi solo poteva darlo. Prega che questa prova sia breve, disse St. Clair, mi spezza il cuore. Benedite il Signore, è già passata, padrone, guardatela adesso. La fanciulla riposava ansante sopra i guanciali, come persona stanca. I suoi grandi occhi sereni erano immobili, volti al cielo. Che mai dicevano quegli sguardi che parlavano tanto del cielo, la terra e i suoi dolori non esistevano più per ella, ma l'espressione di quel viso era così solenne, così misteriosa, così splendida e trionfante che non permetteva al dolore di singhiozzare. Tutti si raccolsero intorno a lei e stettero calmi a contemplarla. Eva, disse St. Clair con tutta la dolcezza. Ma ella non udì. Oh Eva, dimmi, dimmi, che cosa vedi? Uno sfavillante e beato sorriso rischiarò il suo volto ed ella mormorò amore, gioia, pace e diede un sospiro e dalla morte passò alla vita. Addio, fanciulla amata, Le porte del cielo si sono chiuse sopra di te. Noi non vedremo più il dolce tuo viso. Oh, sventurati coloro che assistettero al tuo entrare nel regno celeste e che tornando con lo sguardo al terrestre soggiorno troveranno la fredda e torbida atmosfera della vita che tu hai abbandonata.